Per me il momento più imbarazzante di una festa nuziale è durante la predica o l'omelia. Dal momento che, al giorno d'oggi, un matrimonio su tre termina con un divorzio, poiché gli sposi felici sono rari più del diamante, mi sembra che gli inviti rivolti agli sposi di amarsi, di rispettarsi, di convivere per sempre insieme, sia il momento più inutile e vano del matrimonio. Ma non è con questo sentimento che mi accingo a considerare il matrimonio come un patto, perché ho la convinzione che l'unione matrimoniale sia non solo un atto civile, ma anche la volontà di Dio. Qual è il momento in cui due fidanzati cambiano radicalmente la loro vita? Quando si innamorano? Quando si scambiano un regalo importante, come l'anello di fidanzamento? Quando si presentano ai rispettivi genitori? No! La loro vita cambia radicalmente quando, davanti alle autorità, e quindi alla società, essi pronunciano la fatidica frase: «Prometto di restarti fedele finché la morte non ci separi». Fedele fino alla morte, una frase tanto carica di significato ma che ancora oggi non è compresa bene. Quando si parla di fedeltà, penso al proverbio che afferma: «Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà?» Proverbi 26. Questo proverbio mette in evidenza che mentre siamo pronti a vantarci di compiere tante cose buone, Dio desidera principalmente la fedeltà, perché è una cosa rara. Però, se consideriamo che vi sono migliaia di coppie che rimangono sposate, dobbiamo concludere che o sbaglia il proverbio o non lo abbiamo compreso. Io credo che non lo abbiamo compreso. Perciò non possiamo permetterci di equivocare il significato della fedeltà nell'ambito del matrimonio, perché ciò ci porterebbe ad avere delle conseguenze molto gravi. La prima domanda che dobbiamo porci è questa: fedele fino alla morte? Ma fedele a chi o a che cosa? Nel rispondere a questa domanda comprenderemo meglio il proverbio. Le risposte a questa domanda possono essere molte. 1. Si può rimanere fedeli ad un impegno del passato. Un giorno ho promesso qualcosa e la mia fedeltà consiste nel non mettere in discussione quella promessa. Ma una tale fedeltà è più verso l'impegno che verso la persona. In questo modo si favorisce l'ipocrisia, perché si tratta di una fedeltà formale. Questa fedeltà non può durare. 2. Si può rimanere fedeli a se stessi. Si è fatta una promessa e si vuole essere coerenti con se stessi. Ma questo impegno vale fino a che non si cambia idea. Una volta che le nostre opinioni cambiassero, rimanendo fedeli a se stessi, si cambierebbe anche verso il proprio partner, e di conseguenza separarsi diventerebbe lecito. Questo tipo di fedeltà non regge nel tempo. 3. Si può rimanere fedeli al proprio coniuge. Si è fatta una promessa al proprio coniuge e si vuole rimanere fedeli. Ma succede che, a volte, il nostro coniuge non sia fedele, non sia più quello di prima. E allora la nostra fedeltà può essere messa in discussione, perché era data a una persona diversa. Questo tipo di fedeltà favorisce il divorzio. 4. Si può rimanere fedeli alla società. Si è preso un impegno davanti alla società e bisogna mantenere l'impegno. Ma quando la società cambia, allora non vi è nulla di sbagliato se la nostra fedeltà si adegua alla società che è cambiata. Questo tipo di fedeltà è mutevole. 5. Si può rimanere fedeli a Dio. Questa sembrerebbe l'ipotesi più giusta, ma, con l'andare del tempo, se si matura l'idea che secondo il pensiero di Dio il divorzio sia giusto, allora per essere fedeli a Dio si può anche arrivare a divorziare. Questo tipo di fedeltà non è duraturo. Fedeli fino alla morte. Ma a chi o a che cosa, dunque? La risposta non può essere che una: fedeli. Non tanto ad un impegno, al coniuge, a se stessi, alla società o a Dio, anche se tutto ciò è utile, ma al disegno divino del matrimonio. La fedeltà duratura sarà dunque quella data al progetto di Dio, per il quale esiste il matrimonio. Il matrimonio è stato istituito da Dio, e lo dimostra il fatto che due persone possono benissimo convivere, senza per questo essere regolarmente sposate. Sposarsi significa volere aderire al piano, per il quale Dio ha istituito il matrimonio, perché ci si sposa? Per essere felici? Per denaro? Per realizzarsi? Perché si è innamorati? Tutte queste motivazioni, e l'ultima in modo specifico, sono fragili, destinate a crollare con il passare del tempo. L'innamoramento non è lo stato normale del matrimonio, ma un giusto periodo per arrivare al matrimonio. Solo colui che si sposa con l'intento di vivere il matrimonio, in modo da realizzarlo. Come Dio lo ha concepito, solo quello rimane fedele. Una persona sposata è quella che partecipa, in tutto e per tutto nel matrimonio, è quella che rimane accanto al coniuge che ha scelto, come si dice, nella cattiva e buona sorte, è quella che vuole costruire e costruisce con il suo partner, è quella che desidera capire e capirsi, relazionandosi in profondità con il proprio coniuge allo scopo di crescere con lui, è quella che ascolta veramente e che prende sul serio le parole del suo compagno, Arra. È quella che segue il partner in tutti gli angoli recessi della sua vita. Una persona sposata non ha più una sua vita. Ella non concepisce più alcuna distinzione fra mio e tuo, ma vive con la concezione del noi. Sì, ella vive il tutto al plurale. Pensa al plurale ed agisce al plurale. L'uomo e la donna restano sì due anime separate, ma hanno talmente costruito al plurale da essere fuse emotivamente, da vivere il noi in tutte le situazioni. Al punto da non saper discernere ciò che sia proprio, da ciò che appartiene al coniuge. Una persona sposata non cerca di essere estranea al suo compagno barra A, ma sarà trasparente e tenderà a quell'unità assoluta, che è la legge divina del matrimonio. Chi si sposa deve dedicare anche il suo tempo per approfondire il rapporto a due, affinché questo diventi uno. Chi si sposa deve accettare coraggiosamente la realtà, accetta il proprio coniuge così com'è, senza perseguire un sogno irrealizzabile e senza voler modellare il proprio partner secondo il ritratto immaginario che abita nella sua mente. Un vero matrimonio si realizza quando la diversità dell'altro non è un nemico sbagliato da combattere e vincere, con il fine conscio o inconscio di poter imporre le proprie vedute, ma si realizza quando la diversità è una realtà da accettare e rispettare e di cui rallegrarsi. Un matrimonio è realizzato quando si è contenti che l'altro sia diverso. Ci si sposa per camminare assieme, per conoscersi, per lottare assieme. Ci si sposa per perdere in parte la propria libertà e pensare a quella di un altro. La persona veramente sposata è quella che non vive da autosufficiente, ma cerca l'aiuto dell'altro. L'Eterno condusse ad Adamo, Eva, perché Adamo non era autosufficiente e perché la donna aveva bisogno di Adamo. Questo è il matrimonio. E questo è il progetto per il quale esso è stato concepito. Molti vantano la propria bontà, ma una persona fedele, in questo senso, chi la troverà? Si può essere dei bravi mariti, provvedere alla famiglia, e non essere fedeli. Questo è il punto. Si può essere delle buone mogli, compiere il proprio dovere, e non essere fedeli. Questo è il dramma. Prendiamo l'esempio del giocatore di calcio. Posso essere un bravo calciatore, educato, non vendicativo, faccio il mio dovere con impegno. Posso anche essere tanto bravo da segnare dei gol da solo, ma in questo modo non sono fedele al principio per il quale esiste il calcio. Giocare con altri e fare un gioco di squadra, aiutare la squadra a far gol ed essere disposto a essere servito. Significa che io ho bisogno degli altri e che gli altri hanno bisogno di me. Occorre partecipare, integrarsi, non essere individualisti. Così, due sposi possono essere brave persone, possono anche non tradire mai materialmente il proprio coniuge, pur vivendo una vita di infedeltà. Si è infedeli quando si vive come se il coniuge non fosse un essere ben distinto con sue proprie attitudini, tendenze, idee, sentimenti, volontà, diverse dalle nostre, ma importanti al pari delle nostre, e di cui si ha il dovere di tener conto col massimo rispetto, anche quando le si reputassero sbagliate. si è infedeli quando non si ha e non si vuole avere bisogno del coniuge. Un vero matrimonio sia quando due persone si sentono vincolate a vivere assieme, ridere assieme, piangere assieme, mangiare assieme, camminare assieme, desiderare di crescere assieme, costruire assieme. L'Eterno ha creato l'uomo e la donna per lavorare e per realizzare insieme dei progetti incredibilmente belli, utili e piacevoli. Essi devono condividere le loro fatiche, i piani, gli obiettivi, i progetti, le realizzazioni, condividendo anche i dolori, le incertezze, le gioie e le soddisfazioni. Per i cristiani un vero matrimonio è anche quando gli sposi si sentono vincolati a pregare e a leggere assieme la parola di Dio, vivere una vita spirituale in comune, condividere l'opera di Dio. Non devono esservi nel matrimonio comportamenti individualistici, perché i coniugi diventerebbero due persone autonome a quali capiti di abitare nella stessa casa. Nel matrimonio l'obiettivo principale non è pensare nello stesso modo, ma pensare insieme. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Ecco allora che di fronte a questa domanda si va in crisi. Ma se la tua fedeltà è data al progetto per il quale l'Eterno ha creato il matrimonio, allora non rimarrai deluso, perché hai tutta una vita per realizzare la vera fedeltà. Chi si pone questo obiettivo raccoglierà i frutti nella sua stagione, perché un matrimonio ben riuscito assomiglia, in molti modi, ad un orto ben curato. Se vogliamo raccogliere pomodori, frutta, verdura fresca, con un sapore totalmente diverso da ciò che compriamo al supermercato, dobbiamo impiegare tempo, fatica, pazienza, sacrificio, altruismo, disciplina, sottomissione. Il detto di Paolo, chi non lavora non mangia, è valido anche nel matrimonio. Per questo il marito, nei confronti della moglie, dovrà manifestare la cura, l'amore, la tenerezza, che la renderanno sempre più sicura dell'affetto che egli prova per lei. Così la moglie dovrà stimare il marito, riconoscere le sue qualità, aiutarlo e sostenerlo nelle sue responsabilità, sia temporali che spirituali, riconoscendone l'importanza e la priorità, e non disputare, non entrare in competizione con lui, ma manifestare la giusta sottomissione biblica. Dio ritiene molto importante il modo in cui viviamo il matrimonio. Infatti il matrimonio è proprio il banco di prova più difficile. Si tratta di amare una persona, non ad episodi sporadici come succede con i fratelli, ma si tratta di vivere o convivere tutta una vita con una persona, nelle situazioni e disposizioni più difficili. È difficile amare il proprio coniuge? Diciamolo con sincerità. È più facile amare tutto il mondo che non il proprio coniuge. Ma Gesù ci ordinò di amare il nostro prossimo, e il nostro prossimo più prossimo è proprio il coniuge. E chi ama il coniuge ama se stesso. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. 20 luglio 2003. Contributo. Desiderio e tenerezza. Claudiana Erich Fuchs. Ellero.